Il mercato ludico è un mercato di nicchia e poco noto al grande pubblico, almeno nel nostro paese. Diversamente accade in altre nazioni quali la Germania, in cui le realtà ludiche sono molto più famose e prestigiose. I titoli sono numerosissimi e le uscite sono copiose tutti gli anni, come ci raccontava Andrea Ligabue qualche puntata fa, e come ci racconterà Luca Cerrato a partire da questa puntata, in cui inaugureremo la nuova rubrica da lui curata. Per scoprire invece come nasce un gioco e come fa a sopravvivere un piccolo autore ed editore in questo grande e quasi sconosciuto universo, abbiamo invitato un ospite che ci terrà compagnia per le prossime due puntate, durante le quali conosceremo dettagli apparentemente di scarsa importanza e invece fondamentali per l'eventuale successo di un nuovo prodotto. Informazioni molto utili per giovani autori che vogliono cimentarsi con la creazione di un nuovo gioco dall'esperienza diretta di un addetto ai lavori molto particolare. Radio 110 presenta Bim Bum Baleggio, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Baleggio, così gioca il mondo. Benvenuti alla nona puntata di Bim Bum Baleggio su 110 Web Radio, la web radio dell'Università di Torino. Per la puntata odierna abbiamo invitato nei nostri studi un giovane editore di Torino, Paolo Vallerga. Paolo è l'inventore di una fortunata ambientazione, le saghe di Conquest, che ha avuto un buon successo di pubblico e di critica sin dalla sua prima uscita nel 2001, e gestisce una piccola casa editrice da lui fondata, la Scribabs, che da 10 anni produce giochi in scatola distribuiti in Italia e all'estero. Paolo ci ha parlato delle difficoltà e delle piccole lezioni che ha imparato negli ultimi 10 anni di carriera, in una lunga intervista che vi proporremo quasi integralmente nel corso delle prossime due puntate. Nel primo spezzone di questa puntata Paolo comincia a spiegarci come nasce un gioco e qual è il rapporto molto importante tra ambientazione e sistema di gioco. I giochi nascono in genere spesso e volentieri per delle casualità, un po' come l'ispirazione musicale. Il musicista a un certo punto scrive una serie di accordi o alcune parole per i parolieri e da lì può nascere un successo, può anche non nascere, perché non è che tutti i giochi sono garanzia di successo. Però l'idea è in genere una scintilla. E chi è più musicista e più paroliere? Quello che si inventa l'ambientazione o quello che si inventa il sistema di gioco? Chi è il più cantautore dei due? No, allora, no, non è facile perché, come ben sai, una canzone poi può avere successo perché la miscela è quella giusta. Sì. Un ottimo testo potrebbe essere su una pessima musica. Sì, sì. Oddio, nessuno te lo dirà mai se sei l'autore, però... E quindi, no, un buon testo e una buona musica contribuiscono. Quindi l'idea dell'ambientazione può essere molto importante, però forse l'ambientazione è un passo successivo. In genere il gioco nasce come una meccanica. Tu devi far funzionare l'ingranaggio. Ad esempio, per l'ultimo gioco che uscirà quest'anno come Scribabs, è 2011. È 011. Questo 011 anche lì è nato parlando con l'autore della meccanica di 011, non sono io, è Marco Valtriani, che è un autore di Pisa, e lui aveva questo meccanismo, questo ingranaggio che funzionava abbastanza collaudato, e io gli ho portato un'ambientazione frutto di una serie di casualità. Anche lì non mi dilungo. Comunque un'ambientazione steampunk, stile 1800, però come più recente, non so, per fare per farmi capire dagli ascoltatori, è tipo lo Sherlock Holmes uscito adesso. Perfetto, Sherlock Holmes. Oppure un altro esempio assolutamente in stile è La leggenda degli uomini straordinari. Sì. Quindi quello è, diciamo, è proprio il genere. E in pratica io ho calato questa ambientazione nella meccanica che lui aveva costruito. Per, diciamo, dare un suggerimento a un nuovo autore, il nuovo autore non dovrebbe teoricamente pensare all'ambientazione prima che alla meccanica, perché potrebbe darsi che un'ottima meccanica, quando arriva in mano a un editore, l'editore dice: sì, ma l'ambientazione che mi hai dato tu non è vincente per questa meccanica. Sì. Proviamo a cambiarla. Per fare un altro esempio sulla mia esperienza personale, nel 2007 uscì Sator, Repotenet, Opera Rotas, che è un altro dei miei giochi che ha avuto, diciamo, un buon successo. In origine quel gioco lì aveva il nome Muddle Maze ed era un classico gioco fantasy. Sì. Dopodiché, provandolo, giocandolo, andando all'estero, varie fiere, confrontandosi con la distribuzione estera, con anche alcuni giochi usciti di recente all'estero, fantasy, ci siamo accorti che il discorso, facendolo provare, tutti dicevano: ah, beh, questo gioco, sì, bello, bello, sembra Dungeon Twister, che era un concorrente dell'epoca, molto bello tra l'altro come gioco. E allora il dubbio era, siccome tutti quelli che vengono a giocarlo dicono sembra Dungeon Twister, il discorso è, l'utente dice, se gli piace Dungeon Twister dice, ah vabbè, ma è come quello, quindi non lo compro. Se non gli piace Dungeon Twister dice, beh, ma è come quello, quindi non lo compro. quindi tu vai di lose, fronte... lose, cioè perdi in ogni sì, caso. Sì, non c'era alternativa. E alla fine abbiamo optato per cambiargli tutta la veste grafica basandolo su una storia a stile Il nome della rosa. Sì. Quindi ambientato in una biblioteca medievale, quindi tutta la connotazione fantasy è un po' sparita. Quelle che erano le magie dei monaci sono diventate le preghiere le magie dei maghi, scusami, sono diventate le preghiere dei monaci. Il gioco è rimasto assolutamente identico e il successo, diciamo, un buon successo l'ha avuto. In bomba giù! Parlando di giochi in scatola, abbiamo parlato dell'efficacia dell'ambientazione rispetto al sistema di gioco. E tutto il resto, nel senso, che ruolo copre tutto l'apparato, tipo le pedine, piuttosto che i dadetti, piuttosto che le casettine, rispetto a tutto quello che abbiamo già detto? Una grande importanza. Una grande importanza perché, dunque, diciamo una cosa. Io sono nato come autoproduttore, nel senso che non avevo nessuna esperienza nel campo dei giochi. Sì. Avevo un'idea, ci ho creduto molto, ha funzionato. Perché è stata premiata in varie cose ed è stata un po' la spada di Damocle, anche che faccio, butto all'aria tutto. Però quel gioco lì e i primi giochi successivi risentivano di una non competenza nel settore. Sì. Il giovane autore che inizia a fare e ha un'idea per fare un gioco, il mio consiglio è quello di parlare con qualcuno che ne ha già pubblicati, per evitare gli errori che abbiamo fatto noi, che abbiamo iniziato in un periodo in cui nessuno ti dava tanta retta. Oggi ci sono delle situazioni che ti danno molto, molto ascolto nel settore ludico. Uno per tutti, cito Idea G, che è un incontro che si fa casualmente qui a Torino. In realtà è nato a Piossasco, poi quest'anno si è spostato all'Open 011, che è una struttura qui di Torino abbastanza interessante, ed è un incontro di inventori di giochi. L'incontro internazionale di inventori di giochi. Mi viene in mente una roba tipo Hogwarts. Sì, è un Hogwarts del gioco a tavolo. Tu vieni e ti siedi e puoi provare qualunque prototipo. Stiamo parlando di prototipi. Non vieni a giocare giochi già editi, vieni tu come autore a presentare la tua idea, ma con le pedine tagliate nella carta, va benissimo, perché il concetto è vedere l'idea e la meccanica. E lì a Idea G partecipano autori importanti, autori stranieri, editori italiani, editori stranieri, e c'è una lunghissima lista di giochi presentati a Idea G che poi in un modo o nell'altro hanno avuto un riscontro editoriale, nel senso che sono stati pubblicati. Visto che ci muoviamo sempre sull'argomento dell'artigianato, molto bello, e sempre con la riservatezza che un artigiano ha verso le sue creazioni, perché non ci racconti quali sono stati i tuoi errori di gioventù? Cioè, quali sono state le buche dentro le quali sei caduto nel preparare i tuoi primi giochi? Allora, rispetto al discorso delle pedine, i pedoni. Sì, è proprio quello il fatto, che il fatto di non conoscere ditte che producessero materiali specifici per i giochi magari mi ha portato ad andare da una tipografia piuttosto che da un'altra, o chiedere in giro. Diciamo, in sé non è questo l'errore, l'errore sta nel fatto che una ditta che stampa giochi lo fa di mestiere. È un po' come andare da un musicista e dirgli mi scrivi una canzone, oppure da andare dalla prima persona che incontri mi scrivi una canzone. E quindi, diciamo, gli errori sono stati nel fare tutto a mio gusto personale. Non ha funzionato. No, allora è un po' strana la cosa, perché nel mio caso poi ha funzionato. Sì, è andata bene. Però mi è andata bene, nel senso che appunto il mio primo gioco, e poi ha preso il premio Lucca, e questo mi ha dato forza per continuare. Il secondo gioco, ad esempio, ho fatto un errore tattico. Io ho pensato, non sono in grado io di disegnare la copertina di un gioco fatto bene. Io sono un grafico, ma più creativo che illustratore, e anche anche lì siamo mestieri diversi, è proprio. Sì. Però io conoscevo per i miei trascorsi lavorativi alcuni illustratori, tra cui Sergio Toppi, che è uno dei maestri del fumetto italiano, uno dei più grandi mondiali. Quello che mondiale. Ho pensato non lo posso neanche dire, okay? In radio. La bavetta. Esatto. Okay. E allora ho chiesto a lui gentilmente di farmi l'illustrazione. Anche qui l'errore non sta nell'aver fatto fare l'illustrazione a Sergio Toppi. L'errore sta nel fatto che spesso l'illustratore editoriale non è un illustratore da gioco da tavolo. Mm. Quindi consiglio, tra parentesi, rapidissimo ai giovani autori: ah, mio cugino che disegna e fa fumetto, lasciagli fare fumetto. Ok. Fallo stare lì. Fallo stare lì. Ma mio cugino tipografo. Sì, ma lui è un bravissimo tipografo. Ma il gioco è un'altra, è un'altra cosa. Bim bum bale giù. Che cosa deve disegnare un disegnatore da gioco? Qual è la cosa che manca a un disegnatore di fumetto che ha un disegnatore da gioco? È l'impatto che con cui tu vai a confrontarti. Cioè, in realtà io ho l'immagine di una io non mi ricordo bene la confezione del gioco disegnato da Toppi, però nel senso c'era il drago delle saghe di Conquest, diciamo. Sì. Però era in versione un po' buffa, perché sì, i giochi devono richiamare anche quello, ma il segno di Toppi, sì, è un segno artistico. Mi viene molto in mente una specie di quadro a forma di scatola in quel, ecco, caso, non un infatti gioco. Io ce l'ho appeso in casa. L'originale ce l'ho appeso lì, ma proprio da ritagliare la confezione di cartone e attaccarlo lì. Te ne porto una, quindi cioè no. No, perché ci sono tutta una serie di meccanismi con i quali, diciamo, l'Italia è ancora molto indietro. Sì. Ti faccio un esempio: io ho stampato quel gioco lì in particolare, l'ho portato al distributore, il distributore mi ha detto: ah sì, grazie, ne ho prese forse 100 copie, che è già una cifra, che stiamo parlando per l'Italia, pazzesco, allucinante. Però il gioco finisce lì, nel negozio, dove c'è una concorrenza spaventosa, sì, dove l'80% dei giocatori non conosce Sergio Toppi come fumettista. Molto male. Molto male. Infatti io il mio errore era: vado a Lucca Games, che è Comics and Games, sì, uno che vede un disegno di Sergio Toppi dice: lo voglio. Sì. Nell'area Games c'è un 5% o meno di quello che ho detto prima, che va al 20, ma c'è un 5% che conosce Sergio Toppi e si è interessato al gioco, ma il resto non sa chi sia, almeno fino a quando a Lucca non hanno deciso di mettere in città la fiera, l'hanno portata, sì, da fuori, l'hanno messa nel cuore della città, sì, vecchia, quindi tra l'altro cosa di pochissimi anni, due anni, sì, il prossimo sarà il terzo, credo, e questo forse ha mischiato un po' più le carte in tavola. Però il disegnatore di fumetto non è detto che sappia disegnare un'immagine che mi racconti tutta una storia in un'immagine. Sì. Ti faccio un esempio opposto, nel senso che ad esempio il gioco Big Money 2, che è disegnato da Corrado Mastantuono, altro maestro della Bonelli che disegna qui fumetto. Mi vedi quel mio occhio di già, vabbè. Invece è un esempio di bellissimi disegni, un gioco sugli indiani con delle immagini, illustrazioni di indiani, ecco, quello è un clap proprio, yeah, per la riuscita, ma più che altro anche all'editore che ha, non so se gli abbia dato, sì, dei suggerimenti o comunque hanno lavorato in maniera, quindi diciamo che l'illustrazione della copertina di questo gioco deve saperti raccontare il gioco con alcuni tratti, non so, prendiamo Gesta dannatamente rozze, che tra l'altro secondo me è molto bella, nel senso ha un sacco di scheletri di teschi, sì, tra cui uno appeso, una spada, no, non è una spada, quello è una vorpal, forse. No, guarda bene, è una mano che spunta e che ti racconta. Ah, giusto. Ah, cazzo. È un dito medio. È vero, è un dito medio scheletrico, sì, in un territorio desertico, roccioso. Sì, e quindi devi andare a cercare il gesto dannatamente rozzo. Sembra proprio una spada. Effettivamente non ce l'ho fatto caso. Bim bum bale giù. L'illustrazione di Toppi ha anche un'altra caratteristica che non è solo legata al suo tratto, ma sì, anche al modo di colorare le illustrazioni. Sì. Se conosci un po', per chi conosce un po' Sergio Toppi, tutte le sue tavole sono illustrate in una maniera un po' particolare, con dei colori un po' particolari. Sì, non è un acquarelloso lui. Ma quando al giornalino lavoravo, sì, e si coloravano a mano, sì, si girava sul tavolo luminoso il disegno, si colorava sul retro con delle tempere un po' particolari, questo sì, per creare gli effetti. Più che altro sono proprio le tonalità dei colori, questi viola, questi sì, rosa. Lui, questi... A me piace proprio per quello. Questa è una caratteristica che noi avevamo mantenuto nella scatola del gioco, sì, Millena Rocca, ed è una delle cose che non piaceva assolutamente all'estero nel presentarlo come illustrazione per la scatola di un gioco. E cosa adducevano? Perché... come ragione? Beh, la ragione era che in effetti il disegno sembrava un po' ironico, perché Toppi ha seguito un po' lo stile ironico, sì, del gioco, ma i colori un po' viola, un po' blu, un po' scuri, un po' cupi, sì, non seguivano la diciamo l'espressività del disegno. Sì, non rafforzavano il senso. Non rafforzavano, quindi il gioco sulla scatola del negozio sarebbe stato un grosso punto interrogativo, sì, per l'acquirente. Disorientante. Disorientante. Ma d'altro canto Toppi che fa l'ironico, nel senso, per come lo conosco io, è un po' strano, infatti mi incuriosisce, sì, anche questo, perché lui ha un tono molto drammatico, sì, molto infatti, epico. Infatti la cosa a me piaceva proprio per quello. In effetti questo poteva essere però un errore, voglio, sì, dire, Sergio Toppi per un altro tipo di gioco, con il suo tratto preciso, il suo stile, la sua colorazione, ma per un tipo differente di gioco, probabilmente avrebbe avuto, sì, il successo, sì, che meritava quella copertina. Invece su un gioco un po' più comico così, probabilmente è stato più un difetto mio nel chiedergli, sì, questa cosa, famoso piuttosto... errore di, sì, gioventù di cui abbiamo parlato all'inizio. Bim bum bale giù! Altra cosa, che tanto per tornare ai suggerimenti da dare ai giovani, sì, autori, non vi affezionate troppo al nome che date al vostro gioco. Perché? Okay. Perché il gioco... Ma quello vale per i giovani autori un po' di tutto. Nel senso un po' che di tutto. Non bisogna mai attaccarsi al dettaglio del proprio prodotto, perché può darsi che, sebbene mosso da una ragione magari motivata e tutto il resto, semplicemente non va. E a quel punto assolutamente bisogna, sì, bisogna dare molto ascolto agli editori, sì, o come capita più all'estero che in Italia, anche ai distributori. Sì. All'estero c'è un po' più di rapporto con il distributore, vado da lui, gli faccio vedere la scatola, lui mi dice può vendere, oppure no, guarda, come capitò, questa immagine qua non vende, quindi cambiamo l'immagine. Sì. È ovvio che io sono affezionato, ma subito, immediatamente, l'edizione di Millena Rocca per l'estero, sì, aveva un'altra illustrazione, un altro nome. D'altro canto, nel senso, se l'editore è brillante, quell'immagine bella di Toppi viene venduta in un altro modo. Tipo, non so, mi viene in mente così un extra gadget del gioco. Sì, cioè, poteva il gioco essere... include una bella immagine di Toppi che uno si incornice, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, quello può diventare... Infatti il trucchi dell'editoria che penso uno impari facendo il lavoro. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E la cosa fondamentale è appunto non presentarsi completamente convinti, soprattutto alle prime esperienze, che la propria idea è vincente, sì, o meglio, è importante credere nelle proprie idee, eh? Sì. Quindi io per primo tiro avanti sempre abbastanza come un carro armato, sì, sono convinto che la mia idea funzioni, eccetera, però negli anni ho imparato ad ascoltare molto, a confrontarmi molto, sì, il fatto di cambiare l'immagine non cambia la mia idea, no, mi permette anzi, è quella la grande il grande insegnamento che si impara, penso, sì, mi permette di migliorarla, sì, di aumentarla, è un... L'idea è un qualcosa di elastico, nel senso, cioè, sì, non è che cambiando qualcosa si snaturi il progetto, no, no, no, semplicemente no. Un'idea è come, non so, è adesso non mi viene in mente una metafora giusta, però va lasciata respirare, nel senso, ha bisogno comunque di continui passaggi, di scambi per maturare, per insomma... anche sbocciare, diciamo, adesso mi è venuta, sì, la metafora floreale, alla fine ci sono riuscito a trovarla. Innaffia, esatto, dice alla fine. No, quindi è importante come presentare un gioco per un nuovo autore che ha un'idea da proporre. È importante essere convinti della propria idea, ma è importante ascoltare chi si muove in questo mercato, che è abbastanza difficile, adesso sinceramente un po' come quello musicale, siamo in mercati... In Italia poi non ne parliamo, di nicchia, sì, e siamo in mercati in cui il distributore di solito ti dice che non c'è mercato. Per partenza, per stare sicuro. Io un po' ci ho litigato un pochino con tutti, con i distributori, sì, in Italia, generalmente. Sì, sì, ho questa nomea, perché a mio avviso il distributore fa il mercato. contribuisce a fare il mercato. Un distributore che mi dice che il mercato non c'è, io penso che stia ammettendo... Ponendo un veto. Ma poi stia ammettendo che lui non sta... di non, sta ammettendo di ammettendo, non fare... Ammettendo, non sta ammettendo. No, no, no, sta ammettendo di non riuscire a fare completamente il suo lavoro. Sì. Perché se io distribuisco, divulgo, muovo le pedine, investo nel movimento... Fare mercato è il compito di un buon distributore. Un distributore che dice che non fa mercato è come un autore che dice che non ci sono idee. Guarda, non ci sono idee, allora non sei un autore. No, in effetti è un po' così. E quindi un po' su questo punto mi sono un po' scornato con diversi distributori. All'estero c'è un pochino più di, non elasticità su questo senso, ma di attività, attivismo, di attivazione, attivamento. Vitalità. Sì, di intraprendenza, fermento, ecco. Introduciamo adesso la nostra nuova rubrica, lo spazio al fogliaccio, a cura di Luca Cerrato, in cui Luca ci esporrà delle curiosità legate ai giochi in scatola e ai giochi astratti, a partire dai titoli più conosciuti. In questo primo appuntamento, per agganciarci al discorso sull'ambientazione di gioco, Luca ci parlerà di giochi ambientati in città famose. Bim Bum Baleggiù presenta la rubrica del fogliaccio, a cura di Luca Cerrato. In questa prima puntata vi parlerò di giochi da tavolo, che hanno come tema delle città famose. Sono giochi creati prendendo spunto da una leggenda, dai personaggi che hanno abitato quei luoghi, oppure, più semplicemente, dalla pura immaginazione dell'autore. Sarà un viaggio nel tempo, alla scoperta di eventi storici che potremo far rivivere ogni volta che vogliamo. Nel 79 d.C. Pompei venne distrutta dall'eruzione del Vesuvio. Nel 2004 viene data in stampa The Downfall of Pompeii. Il gioco è diviso in due fasi. Nella prima, i giocatori piazzano, tramite l'utilizzo di carte, i propri segnalini su caselle d'edificio. Nella seconda fase, la lava incomincerà ad invadere la città da diversi punti. In questa seconda parte, i giocatori, durante il loro turno, prima piazzano una tessera lava, che potrà eliminare dal gioco dei pezzi presenti sulla casella interessata, e poi muovere verso la salvezza, cioè verso le porte della città, due propri omini. Al termine del gioco vince chi è riuscito a portare in salvo più pezzi del proprio colore. Rimaniamo al tempo dei Romani e facciamo un salto nella capitale dell'impero, Roma, per la precisione al Colosseo. In nave Caesar i giocatori partecipano ad una gara di bighe. Per muoverle, ogni giocatore ha a disposizione uno speciale mazzo composto da 24 carte, numerate da 1 a 6. I giocatori ne terranno in mano 3 alla volta e, giocandone una, muoveranno la propria biga di un numero di caselle pari a quello indicato sulla carta giocata. Per arrivare prima occorre avere un po' di fortuna e cercare di stringere bene le curve. Venezia e i suoi canali sono il soggetto di Venice Connection. I due giocatori hanno a disposizione 16 tessere che rappresentano tratti di canale. Con queste tessere bisogna cercare di formare un anello d'acqua. Vince chi riesce a creare l'anello oppure colui che annuncia che non è più possibile crearlo. Per ultimo andiamo a Granada, Spagna, e per la precisione al complesso di palazzi chiamato Alhambra, la Fortezza Rossa. Nel gioco, chiamato appunto Alhambra, i giocatori devono acquistare delle tessere rappresentanti degli edifici nel complesso e costruirsi la propria Alhambra, rispettando l'orientamento delle tessere e la presenza o meno delle mura. Il sistema di punti per determinare il vincitore tiene conto dei colori delle tessere acquisite e della lunghezza delle mura. Una curiosità, le tessere edificio vengono comprate con delle carte moneta e il pagamento non prevede il resto. Inoltre, pagando giusto, si ha diritto ad una nuova azione. Questi sono solamente alcuni dei giochi a tema cittadina. Altri titoli? San Pietroburgo, le Mura di Lucca, Le Havre, Toledo e tanti altri. Bim Bum Baleggiù! Siamo giunti al termine di questa nona puntata di Bim Bum Baleggiù, così gioca il mondo. Parlando con Paolo Vallerga abbiamo conosciuto il mondo dei giochi da un punto di vista più volte sfiorato, ma mai sino ad oggi approfondito, e cioè quegli aspetti più materiali e anche, perché no, imprenditoriali della realizzazione di un gioco. Abbiamo parlato di progetti, di idee, di confronto e dell'importante e delicato rapporto che intrattiene un nuovo sistema di gioco con la sua ambientazione, decisivo per il successo o per il fallimento di una nuova idea. La nostra intervista con Paolo continua la prossima settimana, in cui si parlerà ancora di piccola editoria, di gioco, di arte e soprattutto di esperienza. Consigliamo pertanto a tutti i giovani autori di giochi a tornare ad ascoltarci la prossima settimana, e nel frattempo ringraziamo Paolo Vallerga e Luca Cerrato per la gentile collaborazione e Carlo e Sara la parte tecnica. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Baleggiù è a mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera.